Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Chi più spende, meglio spende. Me l'hai tolta di bocca, guarda. Dottore Spizzi, sì. Facciamo un invito. Ma piace spendere, mica risparmiare. Manager no, no, eh. No, no, non ce la faccio. Diventiamo proprio imprenditori? Proviamoci, abbiamo un'idea brillante? Ma ce la facciamo venire. Hai voluto la casa, adesso paghi. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il TFR in busta paga. TFR in busta paga è una possibilità, è una cosa che divide gli italiani. Esatto. Secondo i sondaggi sono 50 e 50. Esatto. Perché qui mi piacerebbe domandarlo a voi e dire: preferite avere TFR... i soldi qui dove le signore si sbracciano? Faremo una cosa che di solito in burocrazia non si fa male: lasceremo al cittadino la libertà di fare come gli pare. Lo sapete, adesso il cavallo di battaglia di Renzi è una scelta libera degli italiani. Italiani a cui dice: fate quello che volete con il TFR visto che è vostro. Ricordiamoci però che negli ultimi anni gran parte del trattamento di fine rapporto molti lavoratori lo hanno versato, lo stanno versando, hanno deciso di versarlo nella previdenza complementare. Allora io, che sono maliziosa, dico: per incentivare la richiesta del TFR in busta paga, che fa il governo? Tassa ulteriormente i fondi pensione. Per le casse di previdenza delle professioni, la tassazione delle rendite finanziarie, ora al 20%, salirà al 26%, come funziona per qualsiasi investitore privato. Per i fondi di previdenza complementare, il conto del fisco salirà dall'attuale 11,5% al 20%. Tassazione che peraltro potrebbe anche essere retroattiva in barba a tutti gli statuti del contribuente a tutti il 2014. Che ne pensate? 800 24 00 24, vi aspettiamo qui con le vostre domande e osservazioni sul tema. Partiamo da questi numeri e cifre che crescono e che ci fanno anche un po' arrabbiare. E sempre a proposito di numeri, nella seconda parte del programma, a partire quindi dalle 11.45, parleremo dei dati del piano nazionale e del programma nazionale Esiti, che fotografano l'efficienza e la qualità dei nostri ospedali, che nonostante qualche miglioramento rispetto agli anni precedenti descrive ancora un quadro a macchia di leopardo. Per la valutazione il programma prende in considerazione ben 129 indicatori e ne parleremo. Ma voi, quando andate in ospedale, che cosa guardate? La gentilezza, l'efficienza, la disponibilità del personale medico e infermieristico, l'igiene? Invece siete più concentrati sui tempi di attesa? Allora 800 24 00 24 per raccontarci che rapporto avete con la sanità, che tipo insomma di sanità conoscete e che sanità vorreste. Avete avuto esperienze positive, negative? Chiamateci e fateci sentire, come si dice, la vostra voce. 800 24 00 24. Tasse, bellissime, adorabili tasse. Sire, voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi. Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco. Questa è buona. Sì. E allora anche i fondi pensione sono finiti nel mirino del governo, un'occasione per Cuore Denari per tornare a fare un punto sulle pensioni integrative che già con un po' di fatica gli italiani sottoscrivono. Cosa succederà con una tassazione un po' più aspra su questi strumenti, il famoso secondo pilastro degli italiani? Non è che adesso si rischia di far diventare magari i prodotti di altri paesi europei più vantaggiosi di quelli italiani? Ne parliamo con un ospite che sa tutto su questo tema, Nadia Vavassori, responsabile di Seconda Pensione, che è il fondo pensione aperto gestito da Amundi SGR. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24, riallerto di nuovo i nostri ascoltatori, voglio sapere che cosa ne pensano di questo argomento, perché è stato oggetto anche di tantissime puntate in passato di Salvadanaio. Cercavamo così un po' di spiegare agli italiani come funziona la previdenza complementare e della necessità di farsi questa pensione di scorta, perché in futuro l'assegno pubblico sarà sempre più magro, e adesso qua ecco che li disincentiviamo un'altra volta. Sorpresina. Prima di interrogarci sulle possibili conseguenze di questa misura, Nadia Vavassori, spieghiamo oggi come incide della la tassazione su un fondo pensione. Io inizio da domani a versare 100 euro al mese su un fondo pensione chiuso o un fondo aperto. Dove e quando mi viene tassato questo fondo? Allora, in Italia l'organizzazione degli schemi di tassazione sulla previdenza complementare sono in questo modo, in uno schema che viene definito ETT a livello europeo, cioè esenzione in fase di versamento e di accumulo, tassazione del rendimento nella fase di accumulo e tassazione in uscita sulle somme accantonate. Per uscita si intende il raggiungimento della, quindi sulla rendita una volta che si ottiene. Perfetto. Nel caso dell'Italia abbiamo fatto qualche cosa di un po' diverso, nel senso che anche la fase del mio versamento di 100 euro al mese o come un PAC programmato in realtà hanno un plafond annuale di deducibilità dal reddito che è di 5.164 euro. Quindi questo ogni anno si azzera e riparte chiaramente da capo. E questo è lo stato dell'arte. Adesso arriva potenzialmente, perché non sappiamo neanche ancora se questo provvedimento passerà, magari qualcuno farà qualche barricata in Parlamento, lo vedremo, oppure passerà così nel disinteresse un po' generale. Le chiedo, Vavassori, secondo la sua impressione, la tassazione è un aspetto importante nella scelta della previdenza complementare? Per esempio i sottoscrittori del vostro fondo chiedono, tra le varie domande che fanno quando sottoscrivono una previdenza complementare, un fondo pensione, chiedono anche della tassazione o un aspetto secondario? Chiedono della tassazione, ma soprattutto della tassazione a fine corsa lavorativa, questo è l'aspetto più importante. Nella fase di accumulo e quindi di attività lavorativa e di creazione della pensione complementare, la tassazione è un aspetto importante, ma siccome il fondo pensione complementare o lo strumento di previdenza complementare non è visto giustamente come un fondo di investimento o un investimento puramente finanziario, non c'è la sensibilità così alta come sull'investimento in fondi o altri strumenti relativamente alla tassazione, che comunque ad oggi rimane come investimento gestito in modo finanziario notevolmente inferiore a uno strumento finanziario puro. Oggi la tassazione sui fondi è al 20%, sul rendimento dei fondi, sui fondi pensione è all'11, 11,50 in funzione. Quindi mi sta dicendo che lei teoricamente lo trova anche corretto questo adeguamento? Mi è dalla parte del ministro Padoan che dice adeguiamoci anche al resto d'Europa. No, io penso che nel resto d'Europa lo schema è esenzione e tassazione. Quindi allora, se da proprio noi, dobbiamo uniformarci, cioè, se proprio dobbiamo uniformarci e quindi poi essere competitivi con un mercato comunque aperto che è un mercato europeo eccetera, lo schema è che non deve esserci l'11, non deve esserci nessun tipo di aliquota sulla fase di accumulo e di rendimento, mentre invece si può pensare a una tassazione in uscita se vogliamo più alta di quella che oggi è definita 15%, che può arrivare fino al 9%, ma visto che adesso introducono norme retroattive potrebbe cambiare. Esatto, infatti anche questo è un punto sul quale poi voglio chiedere un commento. Voglio leggermi un messaggio che raccoglie tutta un'atmosfera di messaggi che stanno arrivando. Insomma, ci scrive un ascoltatore, non si firma. La solita truffa all'italiana: prima mi hanno convinto ad aderire ad un fondo pensione con tasse agevolate, ora cambiano le regole retroattivamente. Esatto. Allora, mi chiedo se queste nuove tasse potrebbero scoraggiare altri italiani nel fare questa scelta. Che ne pensa? Perché già chi ce l'ha viene chi un ce po' l'ha ormai, però dire no, proprio buttarsi. Sì, penso questo. Allora, che a monte l'idea di questo governo di dire il TFR è del lavoratore, è vero, che raggiunga la consapevolezza di farne, insomma, l'uso che ritiene più opportuno, sia corretta in un mondo ideale, dove però le informazioni di base e quindi il lavoratore, l'individuo, hanno chiaro tutti i paletti e tutte le possibili scelte. Se tu nel 2007, quindi non stiamo parlando di decadi fa, mi dici che, facendo un atto di mea culpa, la pensione di primo pilastro non sarà sufficiente perché c'è un disequilibrio generazionale, perché il paese invecchia, economico, perché... e mi dici che quindi io devo preoccuparmi, mi generi la consapevolezza di crearmi una stampella ulteriore. Sì. Mi dici anche, ricordati, c'è il TFR che in fondo è un istituto molto italiano, ma che quando è nato aveva proprio questa finalità, no? Di dare al momento dell'uscita dal mondo del lavoro uno zainetto che potesse far affrontare tutta una serie di nuove spese, esatto, di nuovo stile di vita. Benissimo. Il cestino della merenda, dai. Esattamente. A questo punto mi hai detto una cosa, io, una percentuale piuttosto limitata degli italiani l'hanno compresa. Non oltre il 23% dei lavoratori, percentuale inchiodata lì da anni. E l'hanno comprata, quindi, beh, intanto mi verrebbe da dire, governo, fai pace col tuo cervello, cioè prima di dire che sono passati, cos'è cambiato? Se non mi dai i dati di base, cioè è cambiato qualcosa nell'INPS? I conti sono allora rimessi a posto, esatto, eccetera. Allora mi stai dicendo che allora poi... Allora dicelo magari. Dillo, cioè va bene, ci posso anche credere. Dopodiché io ho un'opinione, penso anche al di là di tutti i conti che abbiamo visto, fatti anche dal vostro giornale nell'articolo di ieri, fatti dai consulenti del lavoro, dell'incidenza, del vantaggio, chi ha il vantaggio e chi non ce l'ha. In realtà chi sceglierà di mettere il TFR in busta paga una volta che sono chiare le regole, quindi poi dovremmo anche parlare del fatto che se lo tengo in azienda è tassato con un'aliquota, se lo metto in busta paga è tassato con l'IRPEF, esatto, e se lo metto nel fondo pensione ce n'è un'altra ancora, no? Per cui anche lì bisognerebbe forse parlare a bocce ferme davvero, però a questo punto chi ricorrerà al TFR in busta paga? Chi probabilmente deve coprire delle spese, certo, già sostenute, certo, con cui ha un debito, per cui mi viene da dire che non agevola neanche il sostenimento dell'economia italiana. Esatto, oggi, con questa insistenza nel rilanciare i consumi, comprare qualcosa in più, credo che non so se l'esecutivo abbia preso la strada giusta. Abbiamo qualche ascoltatore. I nostri ascoltatori, a noi piace molto perché vogliono intervenire in diretta, sì, hanno chiamato l'800 24 00 24. Noi subito diamo la parola ad Augusto che ci chiama da Genova e subito dopo a Maurizio da Roma. Buongiorno Augusto. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità. Benvenuto. No, volevo solo sottolineare il fatto che c'è un'abitudine consolidata nella nostra classe politica di modificare le regole in corso solo per la cosiddetta massa, scusi il termine, di popolazione che ha lavorato regolarmente per 30-40 anni, fa un fondo pensione complementare con certe regole e ora si ritrova quasi a dover riscuotere questo fondo complementare con regole modificate penalizzanti, cosa che non avviene per i soliti privilegi di persone che sono all'interno. Esatto, visto che settori, si fa una grande battaglia sui diritti acquisiti, certo, no? Per esempio i dipendenti del Parlamento, che guai a cambiargli un pochino la retribuzione annua. Adesso non voglio fare la polemica, la qualunquista, perché non è questa la sede, non è la nostra trasmissione la sede, però Augusto ha ragione, insomma, sui diritti acquisiti si toccano solo quelli, no, che interessano. Augusto vuole concludere, mi scusi. Sì, completamente quello che dice la signora, giustamente, perché poi non è qualunquismo, ma sono cose che in paesi tra virgolette occidentali come Francia, Germania, Inghilterra non avvengono, certo, in questo sistema. Augusto, mi dica un po' lei che scelta di previdenza complementare ha fatto nella sua storia lavorativa. Ma io ho avuto la fortuna di lavorare nel settore finanziario bancario, dove già negli anni 60-70 avevano costituito questi fondi complementari che hanno avuto delle agevolazioni fiscali, diciamo, anzi miglioramenti dal punto di vista fiscale sino agli anni 90. Ora invece ci si ritrova con i nuovi colleghi eccetera che hanno delle penalizzazioni che loro stessi sono in stato confusionale, come ha parlato prima lei del TFR, che ora, certo, non si capisce più qual è la convenienza, se trattenerlo in azienda o rimetterlo nel fondo complementare. C'è una grande confusione. Speriamo che lo capiscano, Augusto. Come? Speriamo che lo capiscano, Augusto. Guardi, ma qua veramente so, dirlo in maniera più semplice di così non ho dubbi, perché ormai si parla soltanto per spot elettorali e in maniera molto demagogica, ecco. Invece Augusto, cose, grazie, è stato lei, veramente chiaro. Insomma, l'obiettivo è fare cassa, farla anche a costo di pagare con 10 giorni di ritardo le pensioni dei pensionati, che è l'altra grossa polemica che in questi giorni ha fatto indispettire, sì, non poco il sindacato, che scende in piazza anche su questo. il tema è portare a casa quanta più cassa possibile. Vavassori, Augusto ha ragione, anche per chi l'ha fatta tanti anni fa e adesso potrebbe dire di essere tranquillo, no? Perché i suoi versamenti li ha fatti, fra un po' Augusto forse riceverà anche il suo assegno. E però anche a lui non sta bene quello che succede in questi giorni, perché penalizza anche le giovani generazioni. Ma è proprio una questione di principio, di credibilità, cioè non possiamo, anche qua, questo disegno è stato presentato, ripeto, non è ancora nulla di fermo, certo, eccetera, per coprire un piano triennale. Ma triennale che cosa vuol dire? A chi stai chiedendo il sacrificio? A parte che lo chiedi sempre ai soliti noti, no? Andando, come dire, a colpire anche degli strumenti che sono già strumenti comunque che devono tutelare il singolo individuo. Li hai anche coerentemente individuati. No, è che ti tutela anche già le casse pubbliche, perché se una persona fa una scelta privata che rimanga tale, no? Certo, e sostiene lo sforzo, perché non dimentichiamocelo, lo sostiene il lavoratore, lo sostiene il datore di lavoro, le imprese con il proprio contributo, il lavoratore col proprio contributo e il suo TFR. Quindi già sta facendo, è il settore privato che sta facendo comunque uno sforzo grosso, peraltro non compreso da tutti, ma anche, non lo so, banalmente mi viene in mente anche questo aspetto che non è stato approfondito, il rendimento del TFR. Nel caso in cui vada degli strumenti di previdenza complementare, è garantito dalle società di gestione finanziaria che investono nei mercati finanziari, patrimonio separato. Patrimonio separato tutelato a valori di mercato. Se rimane in azienda, di fatto il datore di lavoro ha un obbligo a rivalutarmi ogni anno e consolidarmi, e questo è un aspetto piuttosto anche pesante da sostenere con i tassi di mercato che ci sono oggi, il 75% dell'Istat più un punto e mezzo. Se lo metto in busta paga, nessun più rendimento da parte di nessuno, perché liquidità nello veloce, schema rapida. Che è stato rappresentato, addirittura se l'impresa si fa finanziare dalle banche anticipando in busta paga, questo rendimento lo deve riconoscere alla banca che gli ha anticipato i denari. Stupisce molto anche che l'ABI non faccia nessuna battaglia in questo e abbia, mi pare, dichiarato una sorta di disponibilità ad appoggiare eventualmente le aziende per erogare con questi anticipi. Appunto, il per TFR. Le banche è un finanziamento, ecco, a un'impresa che viene pagato il 75% dell'Istat più un punto e mezzo, quindi è un buon investimento. Dovrebbero 800240024. Voglio chiedere a voi, Massimo ci scrive, attenzione, chi mette il TFR in busta paga gli si alza l'aliquota ed è facile che gli saltano anche gli 80 euro. Ecco, tra l'altro. Ecco, ma è possibile questa cosa qua? Allora, tutto è possibile perché non abbiamo visto esattamente come è scritta la norma. Ho letto però che dovrebbe non rientrare nel computo del reddito, esatto, ai fini degli 80 euro, per cui non dovrebbe... Se no, vabbè, ecco, si tratta di fare una scelta. Avvaloriamo allora che qualche manovra di carattere elettorale, questo lo dico io, però, perché se poi la fai in modo tale che non incida su quella... Vabbè, comunque. Va bene. Andiamo. Io volevo sentire Maurizio, però sentiamolo rapidamente, poi gli rispondiamo nella seconda parte. Sai che Laura avrebbe detto di no, però Carmelo dice di sì. E vai, Carmelo. Maurizio è nostro. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità. Volevo dire, io nel 2006, quando ci fu da scegliere tra il fondo complementare o il TFR lasciato lì. Il semestre del silenzio ha senso. Io ancora me lo sogno, Maurizio, quel periodo là. No, io scelsi il 33% su un fondo, io sono un ferroviere, quindi su Eurofer, e il resto l'ho lasciato all'INPS, soltanto per la motivazione che era tassato molto meno rispetto al TFR dell'INPS. Adesso se cambiano le regole e quindi viene tassato un più, io all'epoca sottoscrissi un contratto, in pratica, come per un qualsiasi contratto che viene modificato, non è possibile recedere in qualche modo? Io so che non è possibile uscire. Beh, sarebbe una gran bella operazione, un altro atto come di disobbedienza fiscale, Maurizio, avrebbe anche ragione nel farlo. E magari la società con cui è sottoscritto il fondo, in questo caso il fondo chiuso, Eurofer, le dirà, ma non è colpa mia, però ha tutto il diritto, l'ascoltatore appunto, di farlo. Cuore e denari. perché poi c'è una lingua scritta dove c'è la calligrafia che conta. Di solito quella ad avere parole complicate e ha anche una scrittura complicata, perché di solito la scrivono i dottori. Guardi, facciamo una cosa, le prescrivo, d'accordo? Allora, si calmi, le prescrivo del Gividan, il Stojaben, del Kefamal, di Sebidin, del Gagadon, del Zebidal, del Gidjin, del Geminal, del Fragaden, del Zibidin. PN non è un titolo dei mercati, ma sta per Programma Nazionale Esiti, che nello specifico ci dice cosa possiamo aspettarci dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tra poco, a partire dalle 11.45, ne parleremo con i nostri ospiti, ma voi nel frattempo ci potete, lo state già facendo, scrivere e chiamare per raccontarci cosa pensate del Servizio Nazionale Sanitario, che esperienze ne avete e quali sono per voi gli indicatori che fanno l'efficienza di un ospedale. Ma naturalmente potete anche dare dei suggerimenti, perché no, non solo critiche. 800 24 00 24 per raccontarci che tipo di sanità conoscete, ma anche la sanità che vorresti avere. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Beh, per avere 1.000 euro al mese bisogna fare un fondo pensione e versare tanto per avere in prospettiva Nadia Vavassori, però insomma tutto si può fare. Anche scegliere un buon gestore. Anche scegliere un buon gestore. Aiuta. Maurizio era intervenuto poco fa, aveva raccontato che 8 anni fa Ferroviere Previfer, quindi fondo pensione chiuso, un fondo di categoria, aveva scelto di versare parte del suo TFR in un fondo pensione, era consentito, in quel periodo parte lo aveva mantenuto in azienda, però dice: ora mi cambiano il contratto, un contratto che io 8 anni fa ho sottoscritto, per cui se cambiano le regole io ho tutto il diritto di tirarmi indietro da questo contratto. Come dire, effettivamente ha ragione, no? Andiamo incontro ad uno scenario di questo tipo, Nadia Vavassori? In assoluto ha ragione, perché questa è una modifica contrattuale, certo, unilaterale, esatto, un po' forte. Però se ha fatto il fondo pensione con un certo spirito... No, diciamo che il problema è che alternative ci sono quando anche esercito questo mio diritto. Esatto. Poi? Fatto un dispetto a se stesso, deve però magari, esatto, mettersi lì un po' di impegno e fare una valutazione su come inciderà anche sui rendimenti futuri questa modifica della tassazione. Sì, allora io penso questo: chi è entrato sull'onda del 2007, anche in tempi precedenti, comunque i fondi pensioni esistono dal 93, quindi voglio dire, c'è gente che la scelta l'ha fatta consapevole veramente molti anni fa, non cambierà, certo. Lo stanno anche scrivendo in tanti ascoltatori, devo dire la verità, ascoltando anche Radio 24, informandosi effettivamente chi la scelta l'ha fatta in maniera consapevole, senza la pistola puntata alla tempia da parte di nessuno. Esatto, per cui non penso che questo alzare, seppur di 9 punti percentuali, la tassazione sui rendimenti, ripeto, in fase di accumulo, sia, come dire, un peso insostenibile. E dai messaggi è quel retroattivo che sembra non andare giù. E d'altronde posso non va giù come concetto. Esatto, cioè, è quello, in generale. È quello. Allora, però, donna di cuore, sono anche che una c'è? Mamma, e sì, quindi poi volevo dare un pochino, sì, aprire una parentesi per dare voce a tutti quegli ascoltatori che pensano naturalmente ai loro figli, ai loro figli giovani. Abbiamo Armando che ci scrive, poi un'ascoltatrice, ma andiamo, esatto, a Nicola da Cosenza. Sì, volevo prima. Nicola, solamente perché diciamo che la sua domanda è allineata all'ultima considerazione fatta da Nadia Vavassori, che ha rispiegato di nuovo dove inciderà questo aumento della tassazione. Nicola da Cosenza, colto quando Nadia Vavassori l'ha detto? Sì, sì, sì, anzi forse intervengo in ritardo, cioè volevo capire se la tassazione era sul rendimento, quindi non sulla liquidazione finale, e poi se effettivamente, dato che è già stato tassato il rendimento passato, stiamo parlando di una tassazione retroattiva oppure da quello che renderà da oggi in poi il fondo, questo non l'ho capito. Pare retroattiva eventualmente per il 2014, per quest'anno, gennaio, sì. Esatto, quindi ecco la retroattività, almeno ci manca pure che da quando uno ha cominciato a versare, qua veramente scatta la rivolta. Nadia Vavassori, ho detto tutto correttamente? No, sì, è corretto, cioè la tassazione aumenta solo sulla parte di rendimento in fase di accumulo, nulla è stato detto sulla tassazione invece della parte finale della rendita in uscita, e non diamo qualche idea. Io non darei degli spunti, per carità, sull'argomento. La retroattività dell'aliquota vorrebbe dire dal gennaio, dall'11,50, ricordiamoci che a giugno è già stata fatta una norma retroattiva, sì, perché a giugno è stato alzato di 0,50 la tassazione sul rendimento dall'11 all'11,50, retroattiva al primo gennaio, quindi esatto, che lì siccome era piccola era passata un po' sotto gambe, effettivamente anche noi non ce ne siamo occupati. Adesso che comincia a diventare un po' più impegnativo questo aumento, invece forse è il caso di cominciare a sollevare l'argomento. Andiamo a mamma e papà? Andiamo a mamma e papà. Prima un papà, Armando, che ci scrive: proprio ieri ho attivato un piano di accumulo fondo pensione per mio figlio e l'operatore finanziario che mi stava assistendo ha saputo da me la notizia della nuova aliquota di tassazione, perché Armando sente Cuore Denari. Bravo Armando. O legge Sole 24 però, ore. Esatto. Andiamo anche ad Anna Rosa. Ma però questa cosa qua, la Nadia Vavassori, com'è questa storia che... Vedi come sei che ma giri, no, il coltello, allora, perché, io perché sorvolavo, è capitato, Nadia ha visto, anche a me, è capitato anche a me tanti anni fa, quando mi sono messa di punta a voler rinegoziare il mutuo, mi sono sentita dire dal signore in banca alla quale mi sono rivolto, caso che aveva scatenato non ti dico che situazione, non voglio immaginarlo. Io non ne so niente, quando erano 4 mesi che si era nell'autunno del 2008 e tutti in corsa andavano a rinegoziare i mutui, lui non sapeva niente, gli ho detto mamma qua non deve leggere il Sole 24 ore, deve banalmente guardare un telegiornale per capire quello che succede, per cui mi indispettisco un po' quando è una persona che dovrebbe essere il suo pane quotidiano informarsi su questi argomenti. Adesso che ho fatto la maestrina, no, spezzo una lancia, nel senso che è chiaro che il signore, se veniva da Mundi SGR, avrebbe avuto le risposte consapevoli, magari... ma a parte la facile battuta, il problema è questo: non c'è niente di scritto, sì, la previdenza complementare, ahimè, è un mondo molto complicato in termini di aliquote, tassazioni, sì, plafond, non l'hanno per coprire un bisogno che sta diventando un bisogno di base, hanno introdotto strumenti e norme estremamente complesse e tutte le volte il sospetto nasce, tu complichi perché allora non vuoi che la gente capisca veramente fino in fondo, cioè almeno io penso così, il dubbio viene a pensare per male. Cui anche l'operatore, ripeto, non c'è veramente ancora nulla, certo, nulla di scritto, probabilmente avrà detto questo: guardi, sono delle ipotesi, non c'è ancora niente, per cui lei sottoscrive intanto questo PAC, che è il piano di accumulo, non altro. Sì, cioè non che non comunque, è un pacco, volevi dire. No, esattamente, la solita battuta che si fa quando si cita questo termine. Pacco. Diciamo che alla fine ti devi appellare solo al buon senso della finalità per cui lo stai facendo. Esatto. Andiamo ad Anna Rosa da Grosseto. Certo, stiamo chiudendo che è una questa mamma, parte, però una parentesi appunto a questi genitori. E che non vuole solo un consiglio? Buongiorno Anna Rosa. Buongiorno da Grosseto. Sì. Buongiorno, senta, nostra figlia ha 26 anni, è laureanda, e avremmo pensato, viste le condizioni INPS, la sua giovane età e anche la nostra disponibilità, di cominciare a pensare al suo futuro. Cosa ci consigliate? Perché già in banca, certo, ci hanno fatto delle proposte, ma ripeto, la ragazza ha 26 anni, abbiamo una discreta possibilità economica per ora, perché è tutto sempre un po' tutto aleatorio. Grazie Anna Rosa, la chiudo perché dobbiamo chiudere questa parte del programma, però la sua situazione merita un commento. Quante telefonate ricevete del genere? Parecchie. Dunque, per dare subito un consiglio insomma sulla tematica specifica, sicuramente sottoscrivere un fondo pensione aperto. Ma non perché sono di parte, ma non lavora la perché figlia, non lavora, non c'è un suo, domani esatto, la posizione rimane comunque aperta, intestata a lei. I genitori possono, essendo ancora soggetto fiscalmente a carico, dedursi dal proprio reddito il versato dell'anno, e quando la ragazza troverà un lavoro, e ci auguriamo presto, entrerà in un contratto collettivo nazionale, il fondo pensione aperto potrà mantenerlo, potrà trasferirlo, perché è trasversale rispetto ai contratti collettivi. Insomma, si tiene aperte tutte le strade, diciamolo. Esatto, e complimenti a questi genitori aperto, che hanno, come dire, focalizzato la questione importante, quindi non la macchina nuova, che magari ha già ricevuto la figlia di Anna Rosa, però insomma il futuro previdenziale. Nadia Vavassori, se qua parte tutto, la richiamiamo presto, per spiegarci un po' che cosa succede in questo complicato panorama della previdenza complementare. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, spero con delle idee più chiare. Bocca al lupo per decifrare tutte queste novità che ci arrivano. Cuore e denari. E guarirai da tutte le malattie. che sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Allora, e noi continuiamo a riflettere insieme a voi a voce alta, prendendo spunto dall'attualità. Sono stati presentati i risultati delle valutazioni del Piano Nazionale Esiti. Ne avrete sentito parlare, ne avrete letto in questi giorni, se ne sono occupati tutti i giornali che titolavano ospedali insicuri dove si opera poco, oppure un terzo degli ospedali nella lista degli sprechi, o ancora ospedali italiani, ecco quali sono i migliori e i peggiori, solo per citare alcuni titoli. Allora, a Cuore Denari oggi, con l'aiuto dei nostri esperti, cercheremo di leggere i dati, ma con l'obiettivo di tradurli anche in indicazioni. Vogliamo capire cosa possiamo aspettarci dal nostro sistema sanitario e soprattutto come possiamo utilizzarlo al meglio. Allora, 800 24 00 24, chiamateci. Vogliamo anche cercare di capire quali attenzioni e precauzioni dobbiamo avere per la salute di entrambe, noi e del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Il programma nazionale Esiti, di cui parleremo tra poco, è sviluppato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per conto del Ministero della Salute e fornisce, come vi ho anticipato, a livello nazionale valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità anche delle cure prodotte nell'ambito del servizio sanitario. Insomma, ci tengo a sottolineare che non è una pagella, non è una classifica, ma con un po' di fantasia può essere vista come una sorta di cartella clinica del servizio sanitario che ne descrive il normale funzionamento, ma ne evidenzia contemporaneamente criticità e situazioni anomale. Allora, oggi in linea con noi abbiamo il piacere di avere il direttore generale Francesco Bevere, a cui proprio, come faremo con un dottore, chiediamo come sta il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, direttore, come sta? Il programma che avete elaborato analizza i dati per gli anni 2008-2013 sulla base di 129 indicatori. Tutti gli ospedali italiani vengono valutati nei vari settori, ne cito alcuni: il cardiovascolare, settore chirurgico, cerebrovascolare, anche respiratorio, malattie infettive, indicando l'attività che fa nell'esito delle cure. Alla fine di tutto, direttore, il nostro Servizio Sanitario Nazionale gode di buona salute, come ne esce? Ma ne esce bene, perché in buona sostanza il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ricordo a tutti che è ancora tra i migliori al mondo e tra i primi in Europa, è un servizio sanitario che gode di buona salute anche grazie a questo sistema di monitoraggio e di controllo che pone in essere il Ministero della Salute attraverso l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali. Quindi la manutenzione e il monitoraggio sono elementi fondamentali per tenerlo sempre più in buona salute. Direttore, sembra che a fare la differenza siano due variabili: la dimensione dell'ospedale e il numero dei casi, la casistica. Insomma, sembra che la qualità dipenda dalla quantità. È corretto? Ma guardi, noi ci occupiamo e ci occuperemo sempre di più del come le cose vengono fatte negli ospedali e in tutti i luoghi dove si produce assistenza sanitaria. Non vi è dubbio che l'abilità del professionista sia un requisito, una caratteristica fondamentale per il successo delle cure. L'abilità la si acquisisce anche rispetto al numero dei casi trattati. Cioè, più interventi si fanno, più sicuri siamo che in quel centro. Senta direttore, prevenire è meglio che curare. Noi lo ripetiamo spesso a Cuore Denari, perché individuare la presenza di eventuali fattori di rischio e anche lavorare nel tentativo di correggerle è l'indicazione che ci danno tutti i medici, no? Qua, che passano di qua. Anche voi siete in grado di intervenire sulle criticità e le situazioni anomale prima che si verifichino i danni? Assolutamente sì, ci stiamo attrezzando per questo, perché il patto per la salute, che come lei sa regola i rapporti tra governo e regioni ed è stato siglato a luglio scorso, prevede proprio ed affida ad Agenas il monitoraggio di un sistema che ci consentirà di intervenire prima che capitino dei difetti, diciamo, di organizzazione o di assistenza, attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori che stiamo perfezionando insieme alle regioni. Questo significherà che noi arriveremo arriveremo, spero, prima o comunque ad un minimo campanello d'allarme, e quindi significherà che speriamo situazioni così croniche e così gravi non abbiano più a ripetersi. Ma nell'analisi dei dati delle varie strutture, quali sono state le sorprese in positivo e in negativo? Che cosa le ha fatto dire, oh, questo non me lo sarei mai aspettato, e l'ha colpita positivamente o negativamente? Allora, guardi, positivamente sicuramente il fatto che vi è una tendenza al miglioramento generalizzato, non più soltanto le regioni del nord ma anche quelle del centro-sud, anche se molto più lentamente. Un'altra cosa positiva è quella degli operatori, perché abbiamo visto che l'accesso a questo sistema è avvenuto con accessi sempre più ripetuti da parte degli attori principali del sistema, cioè da parte dei medici. Questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che si è capito finalmente che quando si sbaglia o c'è un errore o c'è un difetto, basta sedersi intorno ad un tavolo, fare un audit con degli esperti e ricercare le cause di quel difetto assistenziale o di quel difetto organizzativo. Soltanto così nel tempo potremo migliorare il nostro sistema. Grazie al direttore Bevere per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, aspettiamo i vostri commenti all'800240024, anche i messaggi. No, ti dico, sì, c'è già qualcuno pronto. Perché, Deborah, è inevitabile, no? Qualunque indagine, sistema di valutazione, come anche questo programma nazionale Esiti, suscita condivisioni, preoccupazioni, polemiche e resistenze. Occorre parlarne per affrontare, come diceva il direttore Bevere, per affrontare le cose, condividerle, superarle, per promuovere e favorire il cambiamento. C'è ancora della strada da fare, dei margini di miglioramento. Siamo in cammino, come si dice, ma partiamo da buone posizioni. Il nostro servizio sanitario nazionale è nell'Olimpo dei servizi sanitari. La sanità italiana è la più efficiente in Europa e la terza nel mondo. Se perdiamo di vista questo, rischiamo di perdere la bussola. E noi oggi invece abbiamo un grande esperto che ci aiuta un po' a recuperarla. È tornato a trovarci il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Allora, professore, abbiamo parlato del programma nazionale Esiti, che ci dà una fotografia, io ho definito una cartella clinica del servizio sanitario, che pare diversa da quella stilata da altri dati che ci fanno, sottolineano come noi siamo i primi in Europa e il terzi al mondo. Cuore e denari. Chi è? Corsetti remo, artrose colonna vertebrale. Sì. Dove hai fatto le arti? Radiologo Filopanti, mi ci ha mandato lei. E certo, quella che avevi non si vedeva niente. Vedi quarta e quinta vertebra, vedi com'è chiara? 10.000 lire, è chiara, sì. Sì, piegano un po'. Oh. Traumatologico, gli fanno il busto. Ma col busto non posso più lavorare. Che lavoro fai? Sono impiegata ai posti, ufficio team. E beh, timbri in piedi. E se la ride Deborah, eccoci qua, siamo tornati insieme. Oggi valutazione a confronto, parliamo del Servizio Sanitario Nazionale che conosciamo per esperienza diretta, quindi se avete subito un intervento d'urgenza o d'elezione, se dovete sottoporvi a terapie croniche, controlli regolari, chiamateci e raccontateci in base alla vostra esperienza diretta quali sono secondo voi i punti di forza e quali sono invece le criticità, ma anche quello che secondo voi dovrebbe cambiare per migliorare la situazione, là dove a vostro avviso non è adeguata. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Remuzzi. Professore, io vorrei proprio aprire i microfoni ai radioascoltatori di Cuore Denari, ma tornerei sul fatto che siamo il top in Europa, ma non tutti lo sanno, e di questo primato a volte ci stupiamo per una serie di motivi: liste d'attesa lunghe, pronto soccorso caotici, personale medico spesso distante e non collaborativo. Professore, sto solo raccogliendo alcuni dei messaggi che insieme a Deborah abbiamo letto durante il GR. Sì, io vorrei premettere che prima della legge del 78 del 23 dicembre da noi non c'era il diritto alla salute, nonostante fosse sancito dalla Costituzione. Noi con quella legge ci siamo impegnati a garantire a tutti di potersi curare in Italia, indipendentemente dalle condizioni economiche e dal ceto sociale, e questa è la cosa più preziosa che abbiamo. dobbiamo esserne gelosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, e non costa nemmeno tanto, spendiamo molto meno che in Francia, meno che la Germania, meno degli Stati Uniti. Per esempio, a noi sembra normale che se uno è malato possa avere un trapianto di cuore o di fegato e le cure più avanzate per il cancro senza spendere nulla. Non è così dappertutto. In molte parti del mondo, anche nei paesi ricchi, avere qualcuno ammalato in famiglia vuol dire indebitarsi, e se la malattia è grave vuol dire perdere tutto. Certo, il nostro servizio sanitario ha ormai quasi 40 anni, li dimostra, e ci sono tantissime cose che possiamo migliorare. Professore Muzzi, sentiamo subito Valentina che ci chiama da Milano e Giusi dalla provincia di Lodi. Valentina, buongiorno. Oggi vogliamo proprio mettervi nelle condizioni di raccontare la vostra esperienza e chiediamo al professor Muzzi di darci una sua idea, di capire se le cose di cui ci lamentiamo, di cui siamo fieri, come possiamo interpretarle. Valentina. Sì, buongiorno signore, buongiorno a tutti quanti. Infatti sono completamente d'accordo, complimenti alla sanità. Mi è capitato in due gravidanze di trovarmi in una maniera eccezionale, sia dal numero verde di centro di prenotazione, persone veramente capaci, nel senso che sono loro stesse che a volte consigliano, magari presentando una prenotazione, ti consigliano che tipo di prenotazione fare, dove andare, sì. E da lì poi segue tutto un processo super organizzato. Quindi infatti, Valentina, lei è al nostro Servizio Sanitario Nazionale, ma lei è lombarda, vero? Sì, esatto, di Milano. Di Milano, quindi il suo da 0 a 10? Ma io direi anche 11. Anche 11. Voilà. Professor Remuzzi, però tutte le volte che si parla di ospedali si parla sempre che la nostra modello sanità lombardo è a macchia di leopardo, esatto. Il nord, il sud, ospedali piccoli, ospedali grandi, insomma tante esperienze, tanti pareri diversi. Professor Remuzzi, tra l'altro il numero dei parti è stato proprio un tema che è stato molto dibattuto in questi giorni sui giornali a seguito della presentazione del Piano Nazionale Esiti. Ma l'ascoltatrice ha messo il punto sulla cosa più importante. Noi dobbiamo fare delle scelte, lei è stata fortunata, è andata in un ospedale dove tutto funzionava bene, l'indagine da cui voi siete partiti, questa indagine a Genas, fa vedere molto chiaramente che per essere curati bene si deve andare in un ospedale dove si curano tanti pazienti, perché fare il chirurgo, fare il medico, fare l'ortopedico è come suonare il pianoforte o giocare a tennis. Se uno gioca tutti i giorni o suona tutti i giorni sarà bravo, se lo fa una volta ogni tanto, indipendentemente da dove si parte, non lo si può fare. Noi purtroppo non siamo ancora stati capaci di chiudere i piccoli ospedali, quindi tante esperienze negative dipendono dal fatto che le persone sono disponibili a fare 300 km in macchina per andare a sciare la domenica all'andata e altri 300 al ritorno, ma vorrebbero l'ospedale sotto casa. Questo non va bene. E siamo noi a sbagliare, perché i politici sono influenzati in un modo assoluto da quello che pensa la gente. E tutte le volte che noi parliamo, anche in Lombardia, questo ospedale andrebbe chiuso, che non vuol dire mandare a casa le persone, perché il grande bisogno adesso è quello di assistere gli anziani, per esempio. E quindi si tratta di riconvertire queste persone a fare altre cose, cose più importanti, che sono tra l'altro molto stimolanti anche dal punto di vista intellettuale, se uno le fa in un certo modo. Allora c'è la protesta dei sindaci, la protesta della gente. Ricordiamoci che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è fatto di medici, è fatto di infermieri, è fatto di strutture, ma è fatto soprattutto da noi. Noi possiamo educare i medici, migliorare le strutture, possiamo fare moltissimo, ci vuole però l'impegno di tutti. Professore, ma possiamo fare molto, ma concretamente oggi vogliamo, lei sa che a Cuore Denari vogliamo dare anche delle indicazioni, sì, per orientare un po' le nostre scelte, ma quando abbiamo bisogno di farci curare ci piacerebbe avere la garanzia di essere curati nel modo migliore, naturale, no? Ma chi ce lo garantisce? Sembra che se ci ammaliamo dobbiamo almeno augurarci di essere in una regione e vicino a un ospedale all'altezza della situazione. Abbiamo recuperato dei dettagli, meglio gli ospedali grandi. Lei diceva il medico è come il pianista, deve suonare tanto. Noi come possiamo fare per essere sicuri di ricevere le cure migliori per il nostro caso. Ci informiamo sul numero dei casi, andiamo negli ospedali grandi? Dobbiamo distinguere il problema in due parti. Se uno ha un infarto, un'emorragia cerebrale, una leucemia acuta, un dolore addominale che corrisponde a una perforazione dell'intestino, non è che può scegliere tanto. Deve andare nella sua regione in un posto relativamente vicino. Dove si va? Si va nell'ospedale che non è soltanto più grande, ma nell'ospedale che noi conosciamo per essere un ospedale affidabile, e questo le persone lo sanno. Adesso ci sono queste classifiche che purtroppo non sono classifiche di esiti, sono classifiche di progetti, processi, quindi bisogna stare molto attenti, perché l'attesa per la protesi dell'anca può essere dovuta anche al fatto che sono molto bravi e devono operare tantissimi malati, quindi queste vanno prese. Non abbiamo ancora una classifica degli ospedali come negli Stati Uniti che dica effettivamente questi sono bravi perché guariscono più persone, questo non l'abbiamo. Non si può sapere. Nel caso in cui uno ha una manifestazione acuta, bisogna andare al pronto soccorso, e non si va a un pronto soccorso di un piccolo ospedale per una cosa che tu percepisci come grave. Poi invece la stragrande maggioranza, l'80-90% dei casi, si tratta di fare degli accertamenti, di capire cosa c'è che non va, di scoprire che forse c'è un tumore per tempo per poi poterlo curare. Qui è fondamentale il medico di famiglia. Noi dobbiamo scegliere il medico di famiglia. E come si sceglie il medico di famiglia? Gli si fanno delle domande, gli si parla. Se il medico di famiglia è gentile, è capace di rispondere alle tue domande, ti dedica del tempo, non fa come il dottor Terzilli che avete fatto all'inizio, mi pare che fosse. Bravo. Allora quello lì più è vicino al dottor Terzilli e meno va bene, e più è un medico di famiglia che è disponibile non soltanto a farti le ricette, ma magari a spiegarti che bisogna ridurre il numero di farmaci piuttosto che aumentarli, che non ha un farmaco per qualunque disturbo. Quello lì vuol dire che è un medico bravo. Allora è al medico bravo che poi noi dobbiamo chiedere dove andare per delle cose che sono di elezione, dove vado a partorire, dove vado per il mal di schiena, dove vado a fare degli accertamenti per delle malattie che vanno accertate ma che non rappresentano un infarto del cuore o un'emorragia cerebrale, per cui devi andare al primo pronto soccorso. Quando dicevo dobbiamo cambiare un po' la mentalità, noi dobbiamo capire che siamo delle persone che devono cominciare a partecipare attivamente a quanto gli succede intorno in campo di sanità. Bisogna capire quali sono i progetti del mio dottore su di me, condividere le responsabilità. Bisogna per esempio che noi cominciamo a renderci conto che in medicina non ci sono delle certezze, in medicina ci sono dei gradi di probabilità. Quindi noi non dobbiamo scegliere il chirurgo che non sbaglia, non c'è il chirurgo che non sbaglia, dobbiamo scegliere il chirurgo che ha meno probabilità di sbagliare e accettare che sbagliare è possibile in medicina. Si tratta di trovare un medico che è in grado di orientarci, e il medico di famiglia lo possiamo scegliere per fortuna, quindi quello è il primo passo. Allora, domande al medico di famiglia, se assomiglia ad Alberto Sordi lo lasciamo, lo salutiamo e fuggiamo a gambe levate, ma ci sono anche molti altri messaggi. Allora, certo, un'altra questione molto gettonata fra gli ascoltatori questa mattina è naturalmente la forte differenza delle liste d'attesa fra il pubblico e il privato, problema arcinoto del quale in tutti si lamentano. Regione Marche, mi segnala un ascoltatore, per un TAC 6 mesi. Maria Grazia ci scrive: abito in provincia di Como, posso testimoniare che sono diventati inaccessibili. Per avere radiografie, ecografie, risonanze magnetiche bisogna aspettare il doppio del tempo previsto dagli standard. Nelle strutture convenzionate i tempi di attesa sono minimi. Ci scrive avere dei sospetti. Non ho letto la chiosa finale, ma insomma è legittima anche quella di Maria Grazia. Professore, che si dice? Qui c'è uno scandalo, questo è un grossissimo problema della sanità italiana. Noi abbiamo degli ospedali pubblici in cui ci sono medici, adesso addirittura vogliono estendere anche gli infermieri in Lombardia, che possono fare professione privata in ospedale. Allora si chiama in gergo l'intramenia. Sì. Esatto, se lei paga domani per la TAC, se no tra 2 mesi. E questo è un modo per favorire la professione privata e questa attività privata dei medici. Questo è profondamente sbagliato. Io penso, e anche qui ci dovrebbe essere un movimento di opinione che però ci supporta, che i medici del Servizio Sanitario Nazionale debbano essere medici che lavorano negli ospedali pubblici mattina, sera e notte, perché si può lavorare anche di notte, si possono fare dei turni naturalmente le radiografie di notte per il Servizio Sanitario Nazionale, e abbiamo tantissimi giovani che farebbero questo con enorme entusiasmo. Mm-hmm. Chi è interessato a fare la professione privata la fa in strutture private, che siano però private private, non private convenzionate in cui paghiamo noi per avere un'assistenza privata. Questo non va bene. Qualunque attività privata dovrebbe essere fatta, secondo me, in strutture private dove ci sono persone che fanno quelle scelte. Uno va, paga, lui o la sua assicurazione, e gli danno tutto quello che vuole nei tempi giusti. Poi però i malati gravi li si cura negli ospedali pubblici, bisogna tenere presente anche molto questo. Adesso c'è il pericolo di Ebola, arriverà in Italia, non arriverà in Italia. Il primo malato di Ebola non andrà in una clinica privata, andrà allo Spallanzani, se è nel sud o vicino a Roma, andrà al Sacco, se è a nord, certo. Se a Milano. E questo quando si tratta quelli che possono mettere in gioco la propria vita per i malati, perché lo devono fare per la Costituzione. Noi siamo vincolati a curare tutti, non possiamo scegliere quelli che vogliamo curare. Questo succede negli ospedali pubblici. Professor Remuzzi, noi dobbiamo affrontare ancora questo tema che veramente sta appassionando gli ascoltatori, che ci mandano dei messaggi. C'è chi vede una sanità perfetta, chi invece sottolinea, come ad esempio fa ad esempio Antonella da Brindisi, per un in Puglia, per una mammografia 13 mesi. Insomma, abbiamo ancora molta strada da fare. Professor Remuzzi, torni a trovarci presto. Grazie. Grazie. Abbiamo lanciato stamattina delle battaglie non da ridere tra la previdenza complementare e questa questione delle code d'attesa. Insomma, possiamo dire lavori in corso, e il confronto tra la sanità che verrà e quella che vorremmo è al centro di un progetto di ricerca avviata al CERGAS Bocconi. In linea con noi abbiamo il professor Francesco Longo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Professore di Management Pubblico e Sanitario all'Università Bocconi. Il vostro progetto, professore, vuole dare voce ai cittadini e agli esperti del settore per invitarli, un po' come stiamo facendo noi oggi in questa puntata, a raccontare la sanità che vorrebbero. Spesso ci limettiamo alle critiche, voi invece invitate a fare delle proposte, così? Esattamente, noi pensiamo che è matura una stagione in cui c'è bisogno di capire cosa vogliamo fare del nostro sistema sanitario nazionale, perché ci sono tante questioni aperte. Vogliamo mantenere tanti piccoli ospedali oppure vogliamo concentrare tecnologie? Cosa vogliamo fare per i 2 milioni e 300 mila di italiani non autosufficienti e così via? Ecco, per affrontare queste questioni, che sono questioni che interessano la collettività e che non possono essere risolte solo da tecnici, noi del CERGAS Bocconi abbiamo lanciato un grande questionario, uno rivolto agli esperti della sanità, a cui chiediamo come sarà la sanità futura tra 10 anni, e uno rivolto ai cittadini, in cui chiediamo invece di raccontarci la sanità che vorrebbero, all'interno ovviamente di out-out e non di libri di sogni, in modo tale da poter confrontare quello che sono le traiettorie del sistema che ci racconteranno gli esperti e i desideri dei cittadini, perché rispetto a questa distanza bisogna poi disegnare le politiche pubbliche del sistema. Quindi invitiamo i cittadini a andare sul sito del CERGAS, cergas.unibocconi, dove potete compilare questo questionario, dura solo 10 minuti, e fareste un contributo prezioso ad alimentare un dibattito collettivo su come dovrebbe essere la sanità per il futuro. Metteremo sicuramente anche, vero? Sì, guarda, stavo già pensando di andare a dare un'occhiata, mi incuriosisce. Lo faremo. Io sono una fissata delle compilazioni di tutti i questionari e questo è particolarmente interessante. La donna di denari compilerà senz'altro, ma professore, mi racconta brevemente come verranno poi utilizzati tutti questi dati, destinata ai desiderata dei cittadini, arriveranno ai decisori, orienteranno le loro scelte o saranno discussi un po' sempre solo tra gli addetti e i lavori rimarranno un po' lì? Noi il 24 novembre presentiamo il rapporto che ogni anno la Bocconi fa sul sistema sanitario, che si chiama rapporto OASI, e ci aspettiamo, come anche l'anno scorso, un migliaio di partecipanti che sono tutti i principali policy maker e manager del sistema. Quindi quello che viene fuori dal questionario viene immediatamente trasferito a coloro che decidono. Come tutti sappiamo, poi sono le informazioni e le idee quelle che spostano davvero i comportamenti delle organizzazioni e dei decisori. Quindi, professor Longo, dicendo la nostra, abbiamo buone probabilità di essere sentiti e ascoltati e assecondati magari. In questo caso sì, anche perché le questioni sono veramente di grandissima portata. Pensi solo a questo dato: il 30% degli italiani hanno una malattia cronica leggera, il diabete, lo scompenso, l'ipertensione, e questo 30% di italiani consumano il 70% delle risorse del sistema. Ecco, queste persone non hanno più bisogno della sanità come la conoscevamo 30-40 anni fa, fatta prevalentemente di grandi ospedali per acuti, ma hanno bisogno di servizi completamente diversi. Perché vanno ripensati e rispetto ai quali dobbiamo anche un po' cambiare il nostro simbolico. Ecco, probabilmente il piccolo ospedale provincia non serve a queste persone, servono altre strutture di presa in carica della cronicità. Allora, ricordiamo, se volete compilare il questionario, insomma dire la vostra, www.cergas.unibocconi.it, 10 minuti del vostro tempo per dire la vostra, esatto, sul sistema sanitario che vorreste. Grazie al professor Longo. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, buon lavoro a tutti. Cara mia, io ti saluto, lo sai, sì? Lo allora, so. Adesso gli ascoltatori brinderanno con una coppa di champagne, ma io vado via per qualche giorno, torno il 3 novembre. E noi ti aspettiamo. Mi mancherete, vi manderò qualche saluto dal posto in cui vado. Va bene, noi aspettiamo tue nuove, a presto. Buon lavoro. Cuore e denari.